Quando parliamo di tecnologia e diritti umani e ci chiediamo chissà quali saranno i prossimi problemi che dovremo affrontare nel futuro, dobbiamo sempre gettare uno sguardo a quello che avviene nel mondo della sessualità, sia che si tratti di lavoro sessuale o che si tratti di esplorazione del proprio piacere. Oggi parliamo del primo caso, di come le sex worker vengono cacciate dalla piattaforma di Airbnb. Immagina di avere un account su Airbnb, cosa che non dovresti fare, viste le gravi conseguenze sociali, economiche e urbane che il servizio sta creando in ogni città del mondo. Ma ok, tu hai comunque un account, vorresti prenotare un appartamento, ma vieni sbattuto fuori. Profilo bloccato, impossibile usare il servizio. Hai violato i nostri termini, non hai seguito i nostri termini di servizio e gli standard della comunità. Questi sono, diciamo, i messaggi che vi dovreste aspettare di ricevere qualora veniste bloccati. Ovviamente si trovano discussioni riguardo la possibilità di usare Airbnb per svolgere il lavoro sessuale e quindi prenotare una stanza e lavorarci, ma nelle vicende di cui parlo oggi, nei casi riportati dalle sex worker si trattava di prenotazioni per semplici viaggi di vacanze. In un caso di alcuni anni fa, una sex worker aveva ricevuto chiarimenti dal team legale dopo essere stata sbattuta fuori da Airbnb e Airbnb spiegava di aver trovato tracce online riguardo l'offerta dei servizi sessuali, come ad esempio un link al suo sito personale e uno dei servizi offerti per escort. Recentemente, però, questi blocchi di account sembrano essere sempre più automatizzati e l'idea di avere un punteggio di rischio calcolato da un computer deve farci preoccupare. Su quest'idea del punteggio di rischio non ci sono molte spiegazioni, se non un vago riferimento sul sito di Airbnb a questo livello di trustworthiness, questo è il termine inglese utilizzato, una sorta di affidabilità, fiducia, chiamiamolo come volete, un punteggio di rischio. È una sorta di versione aggiornata, potenziata, onnicomprensiva, del vecchio e classico background check. Quindi, anziché limitarci alla domanda, la persona in questione ha precedenti penali, con questo sistema noi iniziamo a guardare il suo comportamento e la sua attività lavorativa. Con gli algoritmi di intelligenza artificiale e il moltiplicarsi dei nostri dati online nascono anche nuove banche dati e nuovi aspetti che possono quindi finire all'interno di questo background check potenziato. Airbnb ci offre un esempio allucinante. Airbnb infatti ha acquistato un'azienda che aveva depositato un brevetto in cui si parla di un algoritmo in grado di valutare l'affidabilità di una persona analizzando anche i post sui social media e altri contenuti. Sostanzialmente ci troviamo di fronte ad un sistema che può discriminare sulla base di diverse categorie e le sex worker finiscono in questa rete. Il brevetto è parecchio eloquente, indica infatti l'avere a che fare con la pornografia come un comportamento sospetto e accosta il sex working ed altre categorie definite critiche come quelle delle persone che fanno uso di droghe o chi presenta tratti narcisisti o episodi di psicopatia. Tutte queste categorie vengono indicate come categorie pericolose e quindi degne di attenzione. Airbnb ha dichiarato ad alcuni giornali di non utilizzare attivamente queste tecnologie. Infatti molto spesso i brevetti non corrispondono a ciò che viene usato realmente, ma d'altra parte però mostrano quali sono le intenzioni delle aziende e in parte anche le potenzialità delle tecnologie a disposizione. Però è anche vero che Airbnb utilizza comunque qualcosa. Sul sito di Airbnb, in un post pubblicato sul loro blog, l'azienda rassicura i proprietari degli appartamenti messi a disposizione dicendo: ogni prenotazione su Airbnb riceve una valutazione di rischio. Abbiamo un sistema di rilevamento in tempo reale che utilizza l'apprendimento automatico, il machine learning, e l'analisi predittiva per valutare istantaneamente centinaia di informazioni da segnalare e quindi seguire con il blocco dell'account per interrompere le attività sospette. Quando rileviamo un comportamento potenzialmente preoccupante, il nostro team può intraprendere una serie di azioni, inclusa la rimozione completa di un utente dalla piattaforma. Questo tipo di discriminazioni si aggiungono a quelle che avvengono quotidianamente da anni sulle piattaforme per l'invio di denaro. Pensiamo a PayPal, che blocca gli account che fanno riferimento a servizi o contenuti sessuali, o a piattaforme come Patreon, che vietano contenuti per adulti. E queste si aggiungono alle altre centinaia di casi di censura di account bloccati sui social network, pensiamo a Instagram, a Facebook. Tutte queste piattaforme che offrono la possibilità di un sostegno economico stanno letteralmente sbattendo fuori le sex worker. E ora Con questo episodio di Airbnb ci troviamo di fronte anche all'impossibilità per le sex worker di godersi in tranquillità la propria vita. Questa vicenda ci ricorda che la criminalizzazione delle sex worker è un problema dannatamente reale e che continua ad espandersi in ogni angolo della nostra vita e persino nello spazio digitale. Ma ci ricorda anche che l'occhio della tecnologia che utilizziamo non solo è puritano, ma sistematicamente distrugge, blocca e getta ai margini le categorie più indifese. Per tornare al riferimento in apertura di questa puntata, riguardo al guardare al futuro analizzando la tecnologia e la sessualità, questa caccia di Airbnb contro le sex worker ci mostra un futuro dove siamo di fronte alla possibilità di essere giudicati da un algoritmo senza nemmeno sapere se effettivamente è un computer a farlo e quali dati ha preso in considerazione. Quindi quella foto a una festa dove limoni con qualcuno o il tuo post sui social network in favore delle sex worker potrebbero un giorno essere usati contro di te.